Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 22. Sentire il signor Hopkins parlare del grande esercito di uomini e donne che vagavano per il paese bastò a farmi sentire inquieta. Il mio lavoro era affascinante. Avevo regolarmente notizie dalla home colony e dalla mamma. Di tanto in tanto riuscivo a mandare un piccolo contributo ai compagni della colonia. Mi guadagnavo da vivere, ma la vecchia smania di viaggiare si era impadronita nuovamente di me. Era primavera. Spiegai al signor Nelson come mi sentivo. «Vai pure», disse ridendo. «Non mi saresti di grande aiuto comunque, così inquieta come sei, perciò vai e vedi che cosa riesci a scoprire. Ma poi torna e aiutami a scriverne. Anzi, ti do un incarico, raccoglie del materiale sulle vagabonde che finiscono in tribunale, che hanno guai con la legge. Non esistono statistiche su questo fenomeno, perché le autorità carcerarie non hanno interesse a stabilire una relazione tra la smania di viaggiare e la criminalità. E perché gli assistenti sociali non sono capaci di carpire alle vagabonde informazioni sulla delinquenza. Vai e cerca di trovare qualcosa. Trascorsi altri 2 anni a New York, con puntate occasionali sulla strada, viaggi simili a quelli che avevo già fatto, incontri casuali, piacevoli e amichevoli, ed esperienze sordide, stimolanti, eccitanti. Ma sempre, in qualsiasi parte del paese, soggiornavo nei campi dei vagabondi, organizzati dal governo, che diventavano sempre più confortevoli, erano attrezzati sempre meglio per soddisfare le necessità delle donne ed erano gestiti con criteri sempre più umani e intelligenti. Tuttavia c'era ancora molta strada da fare. Avrebbero mai imparato a trattare con le ladre, le bugiarde, le truffatrici? Sarebbero mai riusciti a capire l'ansia, l'inquietezza delle vagabonde? Avrebbero mai rinunciato a trasformare in casalinghe, pur senza dare loro una casa, quelle donne in libertà? Centinaia di ladruncole ed ex abbindolatrici cercavano rifugio tra le mura relativamente sicure dei ricoveri per vagabonde, disseminati in tutto il paese. Molte di loro mi raccontarono le loro storie. Farsi mantenere dal governo era molto più facile che rischiare la galera, mi dicevano. Se volevano avventure, la strada ne offriva d'avanzo. Naturalmente ce n'erano alcune che erano sempre mischiate in qualche losco traffico e che venivano nei ricoveri per smaltire la sbornia, come dicevano. State Street Blondie era una di queste, lavorando qua e là. Mi ero pagata il viaggio fino a St. Louis, conobbi State Street Blondie in un ricovero di quella città. Per rispetto verso di lei non mi azzarderò a fare il nome del ricovero, perché potrebbe servire a identificarla. L'anno scorso i giornali di Chicago le hanno fatto fin troppa pubblicità. Blondie era ciò che si potrebbe definire una vagabonda criminale. Scriveva abbastanza bene, perciò quando un giorno, mentre facevamo il bucato insieme nella lavanderia, mi confessò di sentirsi di nuovo la smania addosso, le proposi di scrivere la storia della sua vita. Ed eccola qui, tale e quale l'ebbi da lei. Sono nata nel Wisconsin. I miei genitori erano contadini. La mamma mi comprava un paio di scarpe all'anno, generalmente in autunno. Diceva, queste scarpe ti devono durare fino a primavera. Dalla primavera in poi restavo senza fino al prossimo autunno. Quando ebbi 12 anni, mio padre mi comperò un vestito e disse che quelli erano gli ultimi soldi che spendeva per me. Ormai ero grande abbastanza per badare a me stessa. Il primo viaggio da vagabonda lo feci a 13 anni. Su un vagone cieco andai da Toma a Milwaukee, nel Wisconsin, dove stava un ragazzo che mi piaceva. Poi, per paura di mio padre, scappai di casa con un uomo più vecchio di me, che era stato un hobo per tutta la vita. Ci sposammo a St. Paul, 5 giorni dopo il mio 14° compleanno. Mio marito aveva 24 anni. Lavoravo di rado e subito dopo il matrimonio trovai un impiego come cameriera. Così potei mantenerlo. Lui faceva qualche soldo di tanto in tanto giocando a biliardo e con qualche truffa. Eravamo sposati da 2 anni quando arrivammo a Chicago e qui decidemmo di andarcene in California. Da Chicago scroccammo passaggi in autostrada fino a Kansas City e da lì prendemmo un treno passeggeri della Southern Pacific. Viaggiammo su un vagone cieco fino a El Paso, nel Texas, dove fummo beccati dai piedi piatti della ferrovia. Ci portarono alla stazione di polizia, ci interrogarono e scoprirono che ero incinta di 7 mesi. Allora mi affidarono a un'organizzazione di carità e procurarono a me e a mio marito un biglietto per San Diego. A San Diego diedi alla luce il mio bambino, un bellissimo maschietto di 3,5 kg. Dopo la nascita del bambino ce la passammo male. Mio marito non riusciva a trovare lavoro. E io racimolavo la maggior parte dei soldi chiedendo la carità ai passanti. Quella fu la mia prima esperienza di accattonaggio. Quando il bambino compì 3 mesi, decidemmo di trasferirci a Milwaukee. Partimmo facendo l'autostop. Arrivammo fino a Needles, in California, e non riuscimmo più a proseguire. Non avevamo un centesimo per comprare da mangiare. Eravamo disperati. Camminammo lungo la strada nel deserto, fin dove ci fu possibile, e avevamo già percorso una 30 km quando il caldo si fece insopportabile. Io mi sentivo svenire e non riuscimmo più a muovere un passo. Restammo lì 2 giorni, da giovedì a sabato pomeriggio, fino a quando ci raccolse un giudice. Ci portò fino ad Albuquerque, nel New Mexico. Ci comprò da mangiare, regalò a me un paio di scarpe e ci diede $10 per tirare avanti. Il giorno dopo ci caricò un rappresentante diretto a Denver. Quando arrivammo a Denver ci erano rimasti $3. Lavorai un po' e 3 settimane dopo arrivammo in autostop fino a Milwaukee. A quei tempi c'erano molte auto in giro per le strade, ma pochissime si fermavano a darti un passaggio. Nei 3 anni seguenti non rimanemmo mai a lungo nello stesso posto. Ci spostammo da Chicago a New York, da Baltimora nel Maryland al Maine e poi ad Annapolis, a Springfield nel Massachusetts, a Boston. Per 1 anno e mezzo girammo nell'est e ce la passammo bene. Qualche volta lavoravo, ma spesso eravamo al verde e chiedevo l'elemosina. Mio marito non sopportava di rimanere a lungo nello stesso posto. Prima o poi si stufava e dovevamo riprendere a viaggiare. Nel 1925 lui rimase ucciso in un incidente automobilistico. Stavamo viaggiando in autostrada sull'auto di un amico quando un'altra auto di grossa cilindrata sbucò da una strada laterale e ci investì sul fianco. Mio marito morì 3 ore dopo. Aveva tutte e due le gambe fratturate. Il guidatore dell'altra auto non si fermò neppure ad aiutarci. Dopo la morte di mio marito andai a Portage, nel Wisconsin, dove cercai di trovare un impiego fisso per tenermi il bambino, ma non ci riuscii. Feci amicizia con una ragazza e 2 uomini. Un giorno stavamo pranzando al ristorante quando arrivò la polizia e ci arrestò tutti e 4. Seppi poi che uno dei 2 uomini era un falsario. La polizia cercò di coinvolgermi, ma non sapevo niente di quella faccenda e non potei dare loro alcuna informazione. Perciò mi tolsero il bambino e lo rinchiusero in un orfanotrofio. A me appiopparono 10 giorni di galera. Quando uscii di prigione andai a Sparta a trovare il mio bambino, poi tornai a Chicago. Erano tempi duri e senza neanche rendermene conto finì nel giro della malavita. Mentre mi arrabattavo alla bella e meglio in giro per Chicago, feci conoscenza con un gruppo di uomini che ripulivano gli ubriachi e rapinavano i passanti con la tecnica del braccio di ferro. Mi spiegarono che avrei potuto guadagnare un sacco di soldi facilmente. Così iniziai a lavorare con loro. Passeggiavo per strada finché un uomo si avvicinava e mi chiedeva di andare in camera con lui. Rispondevo: «Sì, ma prima voglio passare un momento da casa, vieni con me». Lo portavo sul retro di un palazzo e lo afferravo alle spalle, stringendogli il collo con un braccio mentre i miei complici lo derubavano. Non usavamo mai armi. Sono una donna molto forte e di solito riesco a stringere il collo di un uomo tanto da fargli perdere i sensi. Se qualche volta non ci riuscivo, i miei compagni stendevano la vittima con un paio di pugni ben assestati nello stomaco. Di solito dividevamo il bottino in tre parti. Mettevo da parte i soldi perché volevo tirare mio figlio fuori dall'orfanotrofio. In 9 mesi accumulai $500 e li diedi a un avvocato che non riuscì a cavare un ragno da un buco. Il direttore dell'istituto statale dove era rinchiuso mio figlio mi disse che se gli avessi versato $1,000 avrebbe acconsentito a mandare il bambino in un collegio esterno, mettendolo a pensione presso una famiglia. Gli diedi $700 e concordai che ne avrei versati 5 alla settimana alle persone che avrebbero ospitato mio figlio, cosa che feci per 2 settimane. Il bambino fu affidato a una famiglia che abitava vicino alla mia città natale, Toma, nel Wisconsin. Dopo 1 settimana chiesi a un amico di accompagnarmi in auto fino a Toma. Gli pagai la benzina e gli promisi $25 se mi avesse dato una mano a riprendermi mio figlio. Il mio bambino, Clifton, aveva 10 anni. L'accordo con l'istituto era che andassi a trovarlo una volta alla settimana per 3 ore e che lo portassi in una cittadina poco lontana. Dissi alla famiglia ospitante che portavo fuori il bambino per 3 ore. Invece lo portai a Chicago e per prima cosa gli comprai 2 serie complete di vestiti nuovi. Avevo paura di tenerlo a Chicago e mi parve più prudente lasciare la città. Così ci mettemmo per la strada. Cercai di farlo viaggiare su un vagone cieco, ma aveva troppa paura e non volle salire. Perciò facemmo l'autostop. Andammo a Sioux City, nello Iowa, da mio fratello e lo lasciai lì. Subito dopo tornai a Chicago e ripresi a lavorare con la banda. Il nostro quartier generale era un ristorante in South State Street. Ci bazzicavano truffatori, guardie del corpo, ricattatori d'ogni sorta. Mi guadagnavo da vivere chiedendo l'elemosina, derubando i passanti con il braccio di ferro e con truffe e imbrogli di ogni tipo. Non sono mai stata granché come delinquente e benché i miei compagni mi abbiano chiesto più volte di prendere parte a rapine o altri lavoretti del genere, ho sempre rifiutato. Sono cascata male soltanto una volta e ho avuto soltanto una condanna. Ci eravamo messi a fare il braccio di ferro in una casa del North Side, ma la polizia mangiò la foglia e mi colse sul fatto. Rifiutai di denunciare i miei complici perché mi portarono alla centrale e quasi mi strapparono le unghie nel tentativo di farmi cantare. Ma tenni la bocca chiusa. Benché avessi un maneggione e nonostante le bustarelle agli agenti e a un sacco di altra gente, mi condannarono a 90 giorni, a $100 di multa e al pagamento delle spese. I giornali pubblicarono la mia foto per 4 giorni di seguito. In realtà non avrei voluto farmi fotografare, ma i poliziotti mi ci costrinsero e mi tennero ferma con la forza mentre i fotoreporter scattavano. Sono stata fermata dalla polizia almeno 25 volte, soprattutto per vagabondaggio e come sospetta, ma sono stata condannata soltanto una volta. Però ho dovuto sgangiare un bel po' di soldi ai piedi piatti. Dopo qualche tempo tornai a Chicago con il mio bambino e decisi di mettere la testa a partito. Volevo fare di mio figlio un uomo onesto, religioso e per bene. Cercai in tutti i modi di guadagnarmi da vivere onestamente e accettai ogni sorta di lavoro, andai a servizio e tutto quanto. L'inverno scorso ci trovammo così a mal partito che dovemmo andare a stare al ricovero femminile tra la Adams e la Ashland. Ci restammo per 5 giorni, quella fu l'unica volta che andai in un ricovero. Il mio bambino si lamentava continuamente per la fame e io facevo il giro dei ristoranti e chiedevo se non avessero un lavoro da darmi perché dovevo dare da mangiare a mio figlio. Un giorno mi capitò di fare una giornata a servizio e mi rese $2. La sovrintendente del ricovero lo venne a sapere e cercò di prendermi i soldi. Rifiutai di darglieli e me ne andai insieme a mio figlio. Quella sera un uomo in auto ci raccolse e quando seppe che avevamo fame ci invitò a cena, poi disse che ci avrebbe portati in un albergo di proprietà di un suo amico. Andammo a dormire, ma verso le 2 di notte il nostro presunto benefattore irruppe nella stanza. «Credevo forse di poter mangiare e dormire a spafo?» domandò. «Se non volevo venire a letto con lui, potevamo andarcene anche subito. Fu ciò che feci, infatti, ma prima gli ruppi una sedia sulla testa.» Portai mio figlio da un'amica e le chiesi di badargli, promettendo che presto avrei avuto un po' di denaro. Ero disperata. Sapevo che le organizzazioni di carità non mi avrebbero aiutato e che non sarei riuscita a trovare un lavoro, ma non potevo starmene con le mani in mano mentre mio figlio moriva di fame. Avrei voluto essere una madre onesta, per bene, lavoratrice, ma non mi fu possibile. Perciò tornai alla malavita. Cerco di cavarmela alla meglio. Quando trovo un lavoro lo prendo e quando non ne trovo sto al ricovero finché le elemosine mi fruttano, abbastanza soldi da permettermi di ricominciare. Non ho intenzione di stare a guardare mentre mio figlio muore di fame. Mi piacerebbe molto tenerlo sempre con me. Vorrei che crescesse sano, ma ho avuto troppe rogne con la polizia e i piedi piatti. Mi fermano in continuazione, spesso mi portano anche alla centrale. Ultimamente ho scontato 5 giorni nel carcere della contea, perciò ho deciso che era meglio sistemare mio figlio da qualche parte dove qualcuno possa occuparsi di lui. Adesso sta con certi miei parenti, va a scuola. Devo mandargli $5 alla settimana per la pensione e devo comprargli i vestiti. Non è facile. Devo stare molto attenta a quello che faccio. La mia più grande aspirazione è che mio figlio abbia una buona educazione. Mi piacerebbe che diventasse medico o un bravo musicista. Da quando mio marito è morto 8 anni fa, ho avuto 2 amanti. Con uno sono rimasta 4 anni. Per 9 anni ho frequentato ricattatori, ladri e truffatori e ho ricevuto proposte di tutti i generi. Gli uomini mi hanno offerto un sacco di soldi, fino a $50 per notte, ai bei tempi, ma non ho mai voluto vendere il mio corpo, perché ho sempre pensato che fosse la cosa più umiliante che potesse capitarmi, peggiore di qualsiasi altra. Non ho niente contro le puttane. Mi fanno solo pena. Penso che siano deboli. Quando amo un uomo, ho molta considerazione per lui. Di lesbiche ne ho conosciute tante, alcune hanno cercato di farmi il filo, ma non ha attaccato. Non ho mai fatto il braccio di ferro a una lesbica, né ad altre donne. Di solito quando lavoro scelgo uomini anziani, ben vestiti. In media ci si cavano da $3 a $8, che vanno divisi in 3. Dagli ultimi 5 uomini abbiamo ricavato una volta $55. Un'altra volta 80 centesimi, anche se l'uomo era molto ben vestito. Un'altra volta ancora $5.30. E per finire $4.20 per un totale di $67.10. Abbiamo dovuto dividere il malloppo in 3, come al solito. A me sono toccati $22.37. Li ho spesi come segue. Ci hanno beccati una volta e ci è costato $25. Io ne ho messi 10 e i miei soci hanno messo gli altri 15. Mentre ero nella stazione di polizia, ho dovuto comprare cibo e sigarette per me e per le altre detenute e ho speso $8. Infine ho mandato $5 a mio figlio. Adesso sono al verde. Tiro su qualche spicciolo qua e là in giro per la strada. Non sono né soddisfatta né felice di essere nel giro della malavita. Ci sono finita senza volerlo. Frequentavo State Street e il ristorante di Thompson in Van Buren Street. Ho conosciuto una banda di malviventi e siamo diventati amici. Sono sempre stata attratta dai tipi duri, dai delinquenti, e anche loro mi hanno sempre filato. Sono come una sorella maggiore per quei ragazzi, mi rispettano. Un giorno c'è stata una discussione al ristorante e ho steso un uomo grande e grosso. Da allora i ragazzi mi chiamano sorellona. All'inizio alcuni di loro hanno cercato di portarmi a letto, ma poi hanno capito che non c'era niente da fare e non mi hanno dato più fastidio. Lavoriamo insieme come amici e andiamo benone. Non sono contenta di stare nella malavita e cerco sempre di uscirne, ma per un motivo o per un altro tutti gli uomini che ho amato erano nel giro. Uno dei miei amanti sta scontando 25 anni nella Joliet Prison per una rapina in banca. Tutte le settimane gli scrivo e gli mando i soldi per le sigarette. Non sono molto religiosa. Fino a 2 anni fa, quando mi sono presa il mio bambino, non avevo mai letto la Bibbia. L'ho letta a lui. Qualche volta lo porto in chiesa, nella Chiesa Cattolica. I rossi, i socialisti e i comunisti e gli IWW non mi sono mai andati a genio. Qualche volta ho ascoltato i discorsi degli oratori improvvisati in Bughouse Square, ma non mi hanno mai interessato. Non bevo e non ho mai bevuto, non fumo e non ho mai fumato. Ho comprato un sacco di liquori e di sigarette per i ragazzi. Il mio passatempo preferito è vestirmi da uomo e giocare a biliardo. Gioco abbastanza bene a pool e a carambola. Quando vado a rubare mi vesto spesso da uomo, e anche quando viaggio. Se mi vesto da ragazzo mi danno 21 anni, invece ne ho 29. Non dormo mai con la camicia da notte, ma sempre con il pigiama, con un pigiama da uomo, preferibilmente. Quando ero bambina mi piaceva giocare con i maschi, a fare a botte, e mi piace ancora. Proprio una settimana fa c'è stata una rissa. Un tale ha insultato un mio amico e io l'ho steso con un diretto alla mascella. L'hanno portato dal dottore che gli ha dato 8 punti in testa. Non sono molto istruita. Ho finito l'ottava classe a 12 anni. Non leggo molto. I miei libri preferiti sono quelli di Zane Grey. Non leggo riviste di cinema né altre. Leggo sempre i giornali e gli unici film che vado a vedere sono quelli di gangster. Non so che cosa ne sarà di me. Se le cose non si sistemeranno un po' in fretta, riuscirò a far studiare mio figlio oppure passerò il resto della mia vita dietro le sbarre? Se mi accadrà qualcosa, spero che il mio fratello maggiore si prenda cura del mio ragazzo. Non credo che potrei restare a Chicago ancora per molto. È per questo che ora me ne sto un po' tranquilla, qui al ricovero. Ho intenzione di andare in Florida la settimana prossima. Farò un po' di braccio di ferro laggiù. Ci vado con 3 miei soci. Lo so che è sbagliato rubare, ma non trovo da lavorare. Quando avevo con me mio figlio, andavo all'ufficio di collocamento tutti i giorni. Certamente la società ha il diritto di difendersi se riesce a prendermi in castagna, ha il diritto di mandarmi in prigione, ma io devo mangiare e dormire e mio figlio deve avere i soldi per pagarsi la pensione. Non cerco giustificazioni, so di sbagliare, so di dare un cattivo esempio, ma non ho altra scelta. C'è una cosa a proposito della polizia: ti succhia un sacco di soldi, ma quando sei al verde non ti dà neanche una possibilità. Non tornerò mai dalle organizzazioni di carità. I ricoveri del governo sono un'altra cosa. Tutti sono così indaffarati che nessuno fa caso a come ti comporti. In questi ultimi 2 mesi ho girato 50 fabbriche e non ho trovato uno straccio di lavoro. Non mi resta altro da fare che restare nel giro. E se mi arresteranno o mi spareranno, saprò che era destino e non mi lamenterò. Mentre lavoravo per Andrew Nelson State Street Blondie, venne a trovarmi a New York. Nelson doveva tenere una conferenza alla Boys Brotherhood Republic quella sera e ci portammo appresso il figlio di Blondie, Clifton. Nelson raccontò la storia di Clifton e chiese alla Boys Brotherhood se si poteva fare qualcosa per aiutarlo. Il presidente dell'organizzazione lo portò a casa con sé e pochi giorni dopo ottenne di iscriverlo a un ottimo collegio. Clifton ci rimase circa una settimana, poi scappò. Il professor Nelson lo affidò a 3 famiglie diverse e tutte cercarono di fare qualcosa per lui. Ma tutte le volte Clifton scappava, oppure sua madre veniva a riprenderselo. Libri ribelli. Libri ribelli.